1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:20 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi, per voi, insieme a voi, eccoli qua. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, i titoli intanto in questa giornata di mercoledì 11 maggio. Per il Sole 24 Ore, la corsa ai bond societari, emissioni record in euro. L'inchiesta da gennaio, operazioni per 135 miliardi grazie a tassi zero acquisti della Banca Centrale Europea. E l'effetto BCE, il boom di obbligazioni aziendali emesse in Europa. L'apertura questa del Sole 24 Ore, mentre alcuni giornali scelgono come apertura le unioni civili. Oggi il voto finale alla Camera con fiducia. Unioni civili, la fiducia è un caso. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Per la Repubblica, unioni, il governo mette la fiducia. La CEI, grave errore. La CEI, dunque, i vescovi. Infatti il titolo del Messaggero, unioni civili, fiducia e proteste. E soprattutto ancora più dura La Stampa. Unioni civili sul voto, l'ira dei vescovi. Per la verità il giornale dei vescovi ha un titolo meno duro. Comunque, unioni civili, ultimo colpo di fiducia, è il titolo di prima pagina di Avvenire. Galantino, cioè Monsignor Galantino, segretario della CEI, così si rischia una sconfitta per tutti. Sceglie invece l'apertura sul canone RAI il giornale. Canone RAI, ecco come fare. Mentre Libero, il terrorista arrestato sfilava col sindaco PD. Per l'Unità, diritti alla meta è l'approvazione prevista oggi definitiva per le unioni civili. Sceglie ancora l'apertura sul referendum il Fatto Quotidiano. Il primo epurato è il numero uno del Consiglio regionale della Basilicata che non è allineato e dice e sono stato cacciato per questo dal Partito Democratico. Comunque, ne parleremo di unioni civili più avanti. Voglio però ricordare che noi avremo ospite il sindaco di Licata. Vi ricordate la vicenda di Licata dove vogliono abbattere le case abusive? Ebbene, alle 8:40 sarà nostro ospite il sindaco. Avevamo ospitato qualche giorno fa insieme a Oscar Giannino l'avvocato che ha tentato di fermare con una denuncia il sindaco che su ordine della procura voleva abbattere case abusive. Ora succede che il sindaco ieri è stato vittima di un attentato, si pensa, perché è stata incendiata la casa di famiglia in campagna, la casa del padre. La solidarietà di tutti, il sindaco sarà ai nostri microfoni, bruciano la casa al sindaco che fa demolire le ville abusive. Fabio Albanese dedica mezza pagina sulla Stampa, ma anche il Corriere della Sera con Felice Cavallaro racconta la storia di Licata, provincia di Agrigento. Il sindaco anti-abusivi non lascia, anche se dice ho paura, ma resisto per mio figlio. D'altronde dice, è ovvio, mi chiedo chi me lo faccia fare a rischiare la vita per 1700 euro al mese. Non sono un eroe, vorrei solo amministrare rispettando le leggi. La paura c'è, ma poi quando guardo mia moglie che partorirà tra poco e penso a mio figlio, che gli racconto che suo padre scappa? Resto, serve però la squadra. E ora avrà, oltre che una squadra, una scorta. Questo ha annunciato ieri il ministro Alfano che era a Licata e parleremo con il sindaco alle 8:40. Mi sembra una storia sulla quale tenere i riflettori ben accesi e noi lo faremo a partire da oggi, perché mi sembra una storia incresciosa e però doverosa anche da raccontare. Mentre ieri abbiamo scoperto, almeno questo secondo le inchieste, che avevamo tre persone pronte a immolarsi in nome della Jihad e fare un attentato in Italia. Che tipo di attentati? Forse a Roma, nel mirino il Colosseo, non si sa. Comunque sono stati bloccati a Bari e a Milano, ci sono in fuga due complici, è una cellula considerata legata all'ISIS. obiettivi sensibili già individuati attraverso sopralluoghi, video, fotografie, obiettivi scelti per progettare attentati terroristici in Italia e Inghilterra, soprattutto nel mirino Bari, Roma, Londra. Compaiono il Circo Massimo, il Colosseo, hotel di lusso, centri commerciali inglesi, l'Ipercopi, il porto, l'aeroporto di Bari. Questo nella cellula sgominata ieri con l'accusa di terrorismo internazionale dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Angela Balenzano racconta, pagina 10 del Corriere della Sera, come siano stati arrestati Kari Kestamir Ahmadzai, 30 anni, Surgul Ahmadzai, di 28, Hakim Nasiri, di 23, tutti domiciliati presso il centro rifugiati di Bari. Tutti e cinque, questi tre insieme ad altri due, avevano ottenuto recentemente il permesso di soggiorno e la protezione umanitaria. Trovate foto di loro con Kalashnikov, trovate foto con armi. Il codice per recuperare le armi nelle intercettazioni era «Portami quelle due fionde». È stato trovato anche un selfie nel telefonino di Hakim Nasiri, il selfie col sindaco di Bari, Antonio De Caro, tanto che Libero, in maniera, secondo me, forse anche un po' esagerata, titola in prima pagina il kamikaze stava, il presunto, il terrorista sfilava col sindaco PD. Sì, è un dato di fatto, sfilava. Effettivamente c'è questo selfie che gira, io l'ho messo anche nel mio profilo Twitter. E il sindaco Antonio De Caro, intervistato dal Corriere della Sera, a pagina 11, dice: effettivamente era un tipo strano. A parte che premette, finché i cittadini vogliono farsi una foto con me vuol dire che mi apprezzano, sono contento. Questo ovviamente capita a chi è una celebrità di vario tipo, e anche un sindaco a suo modo lo è. Comunque mi ricordo quel ragazzo e quella foto, perché non ha fatto una sola foto, ne ha fatte diverse, una in piazza, poi mi ha chiamato, poi un altro scatto, ed era un po' strano. Com'è strano? Era pieno di anelli. Vabbè, adesso era pieno di anelli. Aveva scarpe da ginnastica, ma di marca. E vabbè, anche questo. Però era la marcia degli scalzi quella, ecco. La particolarità era questa. Sì, ma poi non era solo. Mi ricordo che anche gli altri del suo gruppetto parlavano molto bene l'italiano, avevano abiti molto costosi. Anche questo non è un qualcosa che ti qualifica come strano. Comunque, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, intervistato al Corriere della Sera, dice: ricordo bene quel selfie, era un tipo un po' strano. L'obiettivo per il messaggero era il Colosseo, ecco i piani dei jihadisti. Va bene, dormite pure sonni tranquilli, state sereni, cari ascoltatori, e alè. Vi segnalo per la cronaca, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, che ha preso 20 anni in appello colui che ha gettato l'acido sul volto di Lucia Annibali, diventata celebre in Italia perché anche con la sua forza, col suo coraggio, con la sua tenacia è una grande testimonianza vivente della battaglia della violenza nei confronti delle donne e soprattutto viene intervistata oggi da Repubblica la vittoria di Lucia. Mi riprendo la vita e penso ai ragazzi sfregiati a Milano. L'altra vicenda per cui sono stati condannati Butcher e la ex fidanzata. Lucia dice: ho avuto paura fino all'ultimo, ma nel mio cuore sapevo che la giustizia avrebbe vinto su tutto. Intervistata da Maria Novella De Luca su Repubblica, ora dice: sono una donna adulta, ho una professione, tornerò anche presto a fare l'avvocato, sono cresciuta attraverso quello che mi è accaduto, ho avuto tanta umanità intorno. Una vita mia è una vita nuova, io dico sono bella, è così. Lo so, avrò sempre le cicatrici, ma fanno parte della nuova Lucia. E comunque amo questo mio volto, rappresenta ciò che sono oggi. Ecco, davvero straordinario coraggio, straordinaria tenacia, straordinaria forza, ho detto. Mi ha solo colpito sul giorno, quando leggo una pagina, e mi auguro di no, poi faccia quello che vuole, perché assolutamente, ma mi auguro che non succeda. Perché la politica poi ingloba tutto, la politica poi ti porta a fare compromessi. Allora, Lucia Annibali, leggo sul giorno l'ipotesi di una candidatura in politica col Partito Democratico. Non importa il partito, non mi interessa, potrebbe essere qualsiasi tipo di partito. ora nel suo futuro c'è la politica, questo giura al giorno. Io mi auguro di no, ma voglio dire, poi è assolutamente libera, come ha dimostrato, di fare le scelte che ritiene più opportune per la sua vita. Spero di no. Non sarebbe il primo caso di persona che entra, diciamo, in politica, diciamo così, dalla cosiddetta società civile, e poi ne rimane disillusa, illusa, pensando di poter cambiare le cose andando in Parlamento, quando si sa che in Parlamento si va lì a pigiare tasti e a non fare molto di più. Non si offendano i colleghi parlamentari, ma nella gran parte dei casi è così. Per motivi anche più ampi che non dipendono da loro, come sappiamo. Ma il premio per l'articolo che mi fa pensare della giornata, il premio Mani sul Volante, va a questa inchiesta di Piero Colaprico, siamo sempre su Repubblica, un'inchiesta tra gli operai rumeni che lavorano in nero per le cooperative di Milano per montare e smontare i palchi dei concerti delle grandi star, Vasco Rossi, Bruce Springsteen, Madonna, gli U2, Jovanotti, Laura Pausini, Renato Zero, se vogliamo venire in Italia, dal mondo all'Italia. Noi, vittime fantasma dei concerti, montiamo i palchi senza contratto, molto spesso in nero, alcuni lavorando 72 ore di seguito. Raccontano a Piero Colaprico un mondo parallelo e sotterraneo incredibile. Tra noi è famoso Giorda, famoso per cosa? Per le lunghe tirate. Ti ricordi a Monza? Ha montato un palco per 48 ore di fila. Anche Marianne Caval era fortissimo. Faticavano in coppia finché Caval non ce l'ha fatta più. Adesso, come lavoro, chiede la carità in Svizzera, gira con la moglie le foto dei bambini sulle magliette. Parlano, lavorano nelle carovane dei montatori di palchi per concerti, ai grandi concerti delle grandi star mondiali, e raccontano a Repubblica: siamo le vittime fantasma, montiamo palchi anche per ore e ore senza contratto. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, l'Alessandro Milan dell'informazione, mamma mia! Mamma mia, ragazzi, che problemi che nasconde la gente, ma noi siamo qua, siamo i più grandi psicologi vostri, gratuiti, al 349-238-6666, sfogatevi con i vostri audio, le vostre sigle. Allora, oggi pomeriggio ci sarà la fiducia e ci sarà il sì definitivo alla legge sulle unioni civili, il cosiddetto disegno di legge Cirinnà, dal nome della senatrice Cirinnà. La fiducia, le proteste, per questo ieri si è distinto l'onorevole Maurizio Bianconi, nostro ospite spesso, che ha fatto il gesto dell'ombrello al ministro Boschi, così racconta almeno il Corriere della Sera. Allora, da segnalare la protesta della Chiesa, dei Vescovi, l'ira dei Vescovi sulla maggioranza. Questo titola Repubblica, pagina 3, una forzatura a votare così la legge. Il rammarico in questi mesi, in poche ore, si è trasformato in irritazione, raccontano Carmelo Lopapa e Giovanna Vitale. Il clima che non fa dormire affatto sonni tranquilli a quella buona fetta di Partito Democratico vicino al mondo cattolico. E fa notare Repubblica come il 3 maggio scorso il segretario di Stato Parolin, cardinale Parolin, stuzzicato dai giornalisti che gli chiedevano un giudizio su Virginia Raggi, candidata a Roma sindaco per il Movimento 5 Stelle, si è sbilanciato dicendo: le auguro ogni successo, di diventare quel che vuole diventare. Detto col sorriso, per carità, ma racconta Repubblica quasi un segno di distacco tra la Chiesa, tra i Vescovi e il Partito Democratico, che è gran fautore di questa legge. Tra l'altro, legato a questa c'è la vicenda Marchini. Marchini ieri, altro candidato sindaco, che ha detto: io non celebrerei mai le nozze gay da sindaco. Apriti cielo, Omofobo io mai stato, eccolo il colloquio con Marchini che racconta il Corriere della Sera, Ernesto Menicucci a pagina 2, ha vissuto una giornata da montagne russe dopo questa dichiarazione. Le leggi si rispettano senza ombra di dubbio, non ho nulla contro il riconoscimento dei diritti civili, ma non è compito del sindaco fare queste cose, per cui non celebrerò unioni gay se dovessi vincere le elezioni. Questa la frase. Perché è legato alla Chiesa? Perché l'articolo più interessante al riguardo è della Stampa, pagina 2. Racconta la Stampa che Marchini probabilmente non ha fatto questa uscita così casualmente. Amedeo la mattina, pagina 2. Marchini incontra Papa Francesco e promette: con me niente nozze gay. Il candidato a Roma ha firmato una sorta di patto con le gerarchie vaticane e ha lanciato un segnale: da sindaco farò obiezione di coscienza. Ne era al corrente Monsignor Galantino, segretario della CEI, che guarda caso proprio ieri alla vigilia del voto dell'Unione Civile ha detto: il voto di fiducia rappresenta una sconfitta per tutti. E racconta dunque la Stampa: Marchini si è convertito, tra virgolette, e la forza dei cattolici a Roma sarà messa a sua disposizione, e dunque il primo obolo da pagare è stato proprio dichiarare che sarà un sindaco obiettore di coscienza. Questa è la lettura della Stampa. In tutto questo invece brinda Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo sviluppo economico, ma colui che molto si è battuto per questa legge, facendo anche uno sciopero della fame nei mesi scorsi. Intervistato a pagina 2 dell'Unità da Delia Vaccarello, dice: sì, farò festa, perché sembrava uno di quei momenti che non arrivano mai. Tra l'altro, dice Scalfarotto, non è che l'inizio, perché ora gli impegni futuri sono la legge sull'eutanasia e quella sulla liberalizzazione delle droghe. Continuerò a combattere per la formazione di uno Stato laico che riconosca il diritto di ciascuno a vivere in libertà alla ricerca della propria felicità. Vabbè, diciamo che le polemiche ci sono, anche Avvenire ovviamente torna con anche un corsivo a pagina 9, proprio in coda alla pagina, in chiusura di pagina, quella voglia di nozze gay che torna a galla. Avvenire scrive: la levata di scudi contro Alfio Marchini, il quale annuncia che non celebrerà unioni gay, suona come rivelatrice. Il candidato civico in realtà ha detto solo di voler rispettare la legge, spiegando che con lui, se sarà eletto, non ci sarà da aspettarsi cerimonie spot alle quali ci aveva abituato il predecessore, prive peraltro di effetti legali. Se da domani invece ci sarà una norma dello Stato che regola le unioni gay, a Roma come altrove si potrà costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello Stato civile. Punto. Chi più ha patrocinato questa legge ha spiegato per mesi che non si tratterà di un simil matrimonio. Tutta questa voglia di cerimonie pubbliche e sindaci in fascia tricolore rivela il pensiero recondito che qualcuno non ha mancato di rendere palese: dare vita al matrimonio gay egualitario, puntando a stravolgere una legge perfino prima della sua approvazione definitiva. Questa è l'accusa di Avvenire. Vabbè. Come finirà, come non finirà, di certo Iena è sempre graffiante sulla Stampa. Pagina 3 della Stampa: non sarà la miglior legge possibile, ma almeno ha fatto incazzare i vescovi. Così Iena, alias Riccardo Barenghi, certo uno non proprio, come dire, vicino ai preti, diciamo così. Allora, invece Renzi torna sulla questione del referendum. Ha detto: si vedrà chi sta con il popolo. E niente, sono questi toni da crociata che aumenteranno sempre di più da qui a ottobre. E il Fatto Quotidiano racconta la storia del consigliere antitrivelle, presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Piero La Corazza, fino a ieri presidente del Consiglio regionale della Basilicata, che dice: mi hanno fatto fuori. È il primo effetto del dissenso. Il consigliere antitrivelle epurato dice: killeraggio. Un atto di killeraggio vero e proprio. Piero La Corazza lo definisce così. Fino a ieri presidente del Consiglio regionale lucano accusa il premier del suo partito di averlo fatto fuori. Pago il mio dissenso per il referendum sulle trivelle. Non è andata giù quella posizione, han colto la prima occasione in assenza di motivazioni politiche per farmi saltare. Il Fatto Quotidiano dedica addirittura il titolo di prima pagina alla sua storia, dicendo appunto che è la prima vittima di questo clima. Referendum primo epurato, questo è il titolo di prima pagina, la storia di Piero La Corazza. Va bene, va bene. A proposito di epurato, no. Mauro Meazza, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Attenzione a questa, attenzione, a evocare queste epurazioni. Senti, devo cominciare con una cosa importante di Radio Fisco. Sì. Ti prego di stare molto attento. Molto. Qui Radio Fisco. Sì. Avere un solo dipendente non comporta il pagamento dell'IRAP. Purché il dipendente non svolga una mansione particolarmente rilevante per il datore. Guarda, è molto importante, so che tu così la prendi con sarcasmo e anche un po' sotto gamba, ma io invece ti assicuro, oggi su Norme Tributi, questa decisione della Cassazione, tutti gli effetti che potranno già vedersi anche nelle prossime dichiarazioni. E a proposito di dichiarazioni, caro Alessandro, ti voglio ricordare che oggi con il Sole 24 Ore ci sono anche 16 pagine di Unico Persone Fisiche. Sai che da quest'anno Unico Persone Fisiche è anche precompilato? Sì. So che tu... Ah, lo sapevi, eh? Bravo. Il famoso precompilato, sì. Lascia stare. Lasciamo stare. Me ne compiaccio, mi compiaccio di questa tua attenzione. Bene, allora ad esempio vuoi sapere che cosa puoi portare in detrazione, quali sono gli sconti? Ecco, lo ricordiamo proprio su queste 16 pagine, oggi con il Sole 24 Ore. Poi ci sarebbe questo problemuccio con la Grecia che si avvia a soluzione. Lì c'è una serie di tranche di debiti che ci impegneranno, forse impegneranno anche i nostri nipoti, però abbiamo, pare, trovato un accordo. Ne riferiamo dottamente in pagina 2 e 3. Ho visto che adesso la tranche più preoccupante è quella che riguarda 37 miliardi. Tu quanto puoi mettere? Guarda, i soliti due eurini, ecco, magari va bene, arriva a 2,50 se proprio. Vedi se puoi entrare nell'accordata allora per la squadra tua omonima, di cui riferiamo nelle pagine di finanza che tu leggerai avidamente, ovvio, specialmente per questa notizia. Allora, quando avrai, ma chi sono questi? Dai, dici tutto. Ma se è Galatioto, Galatioto che fa, come dire, da tramite, e poi c'è questa cordata cinese. Ma dai, tu adesso lo sai, tu interista lo sai, chi è che sono i cinesi dietro? No, guarda, è scritto tutto su finanza, sulle pagine di finanza di oggi, del Sole 24 Ore, è tutto riferito puntualmente. Tieni conto che adesso c'è un mesetto, bisogna vedere che succede. Così come bisognerà vedere che succede di qui al 20 di maggio, segnati il 20 di maggio. Sì, il 20 di maggio, perché ieri il ministro Poletti, beh, bello questa indicazione, tra il ministro Poletti che annuncia il part time per chi è vicino al pensionamento e la finale di Coppa Italia. Sì, non so se le due cose si possono legare. Vabbè, lo so, voi non la giocate. Dovrebbe diventare operazione, certo, un torneo sì prestigioso, per carità. Non vorrei mancargli di rispetto. Adesso ti voglio anche dire, quando avrai ben letto della squadra tua omonima, sì, né sempre nelle pagine di finanza, una notizia direi da leggere con le dita incrociate: i prestiti alle famiglie hanno avuto un sussultino verso l'alto, sono cresciuti dell'1%, 1,1%, e sono anche un po' calate, è un po' calato l'aumento delle sofferenze, quindi insomma ci sono dei piccoli segnali, teniamo appunto le dita incrociate. Bene. Nel frattempo, caro Alessandro, come sempre, traffico! Milan, la radio costa! Abbastanza, ma non troppo, viene via anche a cifre basse e modeste. Allora, cari ascoltatori, Banca Etruria. C'è un articolo di Fiorenza Sarzanini oggi sul Corriere della Sera che mi ha colpito, perché Banca Etruria, le carte falsificate, i PM indagano sul sì della Consob. Attenzione, i magistrati di Arezzo indagano su questo. I funzionari di Banca Etruria hanno falsificato i questionari MiFID dei clienti, alterando al ribasso la percentuale di capitale investito, e lo hanno fatto con la copertura della Consob. Nel prospetto informativo di oltre 150 pagine sull'emissione di obbligazioni straordinarie avvenuta nell'estate 2013 non era infatti specificata la percentuale di rischio dell'investimento. Nonostante questo, la Commissione Vigilanza diede il parere favorevole. È su questo che si concentra il filone di indagine della Procura d'Arezzo sulla truffa ai piccoli risparmiatori. I verbali dei direttori delle filiali raccontano di ordini perentori arrivati dalla direzione generale affinché i bond fossero collocati sul mercato velocemente e nel maggior numero possibile. Una situazione patrimoniale di Etruria che era disastrosa, c'era bisogno di ottenere liquidi per cercare di ripianarla. E dunque, oltre alla circolare che suggeriva di rivolgersi agli investitori, anche quelli che non avevano il profilo adeguato, ci furono altre indicazioni. Una prevedeva di alterare i dati dei clienti. Questa è l'accusa dura su cui Fiorenza Sarzanini scrive: indagano ora la procura di Arezzo per questa vicenda. Va bene, vi voglio segnalare alcune notizie che mi hanno colpito, alcune notizie. Intanto un bel reportage da Mosul, sempre dall'Iraq, dove Giampaolo Cadalanu per Repubblica racconta dove andranno i soldati italiani vicino alla diga di Saddam. Così ci prepariamo a difenderci dal califfato. La guerra è a 20 chilometri da qui, da questa diga dove i soldati italiani dovranno proteggere i lavori di consolidamento appaltati a una ditta italiana, la Trevi. Ovviamente c'è molta tensione e si racconta in questo reportage di Giampaolo Cadalanu come vivono la situazione lì, dove arriveranno circa 450-500 soldati italiani. Vi segnalo anche una bella pagina invece del Fatto Quotidiano, nella parte del Fatto Economico, dedicata al boom di BlaBlaCar. BlaBlaCar, questo strumento della sharing economy. Virginia Della Sala racconta: i trasporti tradizionali costosi, inefficienti, spingono l'azienda di passaggi in macchina, così nasce BlaBlaCar, che ha un volume di affari sempre maggiore, ora vale 1,6 miliardi e inizia a guadagnare 10% a persona. Si punta anche sul cibo in auto, è un viaggio nella sede locale. È un viaggio nell'analisi del mercato italiano di BlaBlaCar, di coloro insomma che chiedono dei passaggi, di fatto condividono dei viaggi, condividono dei tratti di strada. E quanto vale però questa azienda, nata così come fenomeno di car sharing, e che invece sta diventando veramente un fenomeno economico non indifferente, sul Fatto Quotidiano a pagina 16. Come vi segnalo una pagina della Stampa dedicata al tema riguardante i consumatori sull'olio di palma, la grande crociata contro l'olio di palma che fa litigare supermarket e produttori. Perché Giuseppe Bottero torna su questa vicenda sulla Stampa? Perché la Coop ha deciso di ritirare snack e merendine, insomma i prodotti contenenti olio di palma. Lo facciamo per precauzione, spiegano alla Coop. Il problema è l'utilizzo molto elevato, la sostanza non va demonizzata. Sta di fatto che però i produttori dicono basta allarmismi ingiustificati e il dibattito prosegue, e lo trovate sulla Stampa con una pagina. Mentre faccio sapere anche in diretta su Facebook, sul mio profilo pubblico, mi potete vedere in questo momento sulla mia pagina pubblica, quella che è la carta costa di oggi. Oggi i giornali sono comportati abbastanza bene, trovare la carta costa di oggi è stata una fatica, i giornali sono stati molto molto ligi al dovere. Ma su Libero ho trovato un articoletto riguardante i 700 in fila per l'eredità di Prince. Ma chi se ne frega!